due buone o... questo dipende da voi, potete decidere se le ragioni sono buone o no. Per studiare la figura dell'uomo artificiale e del cyborg, allora, mi sembra, se non vado errato, quali erano queste due buone ragioni? La prima è che l'uomo artificiale è una buona illustrazione della... Ah, bisogna ancora finire la seconda però, non ho ancora chiuso il discorso, adesso è più chiaro. Allora, la prima era questa, che la figura dell'uomo artificiale è una buona illustrazione del nesso tra linguaggio e tecnica, perché detta in forma più semplicistica è che è impossibile pensare di costruire un uomo artificiale, cioè di tradurre una descrizione linguistica dell'uomo in un oggetto, se non si dispone di uno strumento adeguato allo scopo che è la tecnica, grosso modo. Prima forse ve l'ho detta in modo un po' più sofisticato, però detta di succo è questo, non è più rilevante. Ah, la seconda cosa è quella che vi stavo dicendo, ma ancora non abbiamo chiuso, ed è che la figura dell'uomo artificiale è una allora, detta in termini brutali, immaginare un uomo artificiale è incompatibile con l'immaginare una natura umana descrivibile positivamente. In realtà però, ovvio, solo detto la parte, stavamo solo dicendo, in realtà sembrerebbe il contrario. Sembrerebbe che si possa costruire solo se l'uomo sia. E stavamo esaminando esattamente, perlomeno nel Novecento, quale fu, ormai scusate il passato remoto, quale fu nel Novecento e quale in parte continua ad essere ancora adesso, la visione che sta dietro alla convinzione di poter costruire un uomo artificiale. Ed è quella che vi stavo dicendo prima, raccontandovi della nascita della cibernetica e del paradigma, chiamiamolo informazionale, che sta dietro alla nascita della cibernetica. Allora, in realtà posso concludere anche un'altra cosa che avevo lasciato in sospeso prima, cioè, ed è questa: gli sviluppi successivi, diciamo successivi agli anni 50, quindi tutto lo sviluppo della cibernetica nella seconda metà del secolo scorso e anche fino a oggi, quindi fino ai primi 10 anni quasi del secolo nuovo. In realtà la cibernetica si sviluppa con due filoni, due punti di vista, quindi questa volta non si può parlare di paradigmi, diciamo due metodi differenti, dicevo, uno quello della imitazione e uno quello della simulazione. Quello della imitazione è esattamente quello più aderente forse alla prima ispirazione della cibernetica, cioè ripeto, ci sono alcune correnti anche negli anni 80 e 90 del cosiddetto transumanesimo che in realtà riprendono quel paradigma, quella idea, quel metodo, e cioè che sia possibile dare una descrizione accurata della fisiologia dell'essere umano tale che possa essere traducibile su di una macchina. E abbiamo detto anche Hans Moravec, ma adesso possiamo scrivere la lavagna, caso che abbiamo il gesso. Hans Moravec, Mind Children, ...1988 mi sembra. Allora, io sto cominciando, se volete i riferimenti al mio libro, sto cominciando dalla fine. Queste cose le trovate trattate nel post-scritto del Cyborg. Ah, del Cyborg dovete avere ovviamente l'edizione 2008, perché se avete quella 2001, questo post-scritto non c'è, che l'ho scritto per l'edizione del 2008, quindi sono i guai di avere un libro che ha successo e che quindi viene fatto in più edizioni, e se mi rompo i coglioni di ristamparlo sempre uguale, ogni volta che viene ristampato aggiungo qualcosa di nuovo. quindi nel 2008 c'è questa cosa qua. Quindi sto partendo dalla fine da un certo punto di vista, perché quel libro lì io l'ho scritto la prima volta nell'85, figuratevi, la prima metà del libro è stata scritta ormai 24 anni fa, insomma. E devo dire, molte cose non le avevo neanche ancora chiare io 24 anni fa, cioè, non mi vergogno di dirlo, cioè, così. Insomma, se uno studia poi capisce delle cose dopo, e quindi insomma ci sono delle, da un punto di vista, però siccome l'impostazione della prima parte è molto interna all'immaginario fantascientifico, è più se insomma, poi nel 2001 ho aggiunto tutta la seconda parte, nel 2008 ho aggiunto il post-scritto e ogni volta ho riscritto l'introduzione, ho aggiunto l'introduzione. Allora, torniamo a noi, diciamo, chiamiamolo metodo di imitazione o metodo di replica, ecco, nella parola, quando nel 1980-81, quando Ridley Scott fa il film tratto dal romanzo di Philip Dick, Blade Runner, e invece di usare la parola che usa Philip Dick, che è androidi, inventa la parola replicanti, replicants anche in inglese, perché replica anche in inglese vuol dire più o meno replica, insomma, cioè è un latinismo per l'inglese. In realtà la parola replicanti indica bene questo tipo di filosofia, cioè anche se in realtà poi non ci spiega né il film né il romanzo come li costruiscono i Nexus 6, ragazzi, guardate che io farò spesso riferimento a film di questo tipo, bisogna che in qualche modo li conosciate un pochino, ogni tanto mi capita, io pensavo tutti hanno visto Blade Runner, scopro che non tutti hanno visto Blade Runner nella vostra fascia di età, quindi vabbè, se no io faccio riferimento a delle cose che non... ma che cazzo dice questo? Vabbè. Allora, i replicanti, non ci spiega come li hanno veramente replicati, ma io sto parlando dell'immaginario che porta dietro una certa parola. La parola replicante indicherebbe effettivamente che la macchina che replica l'uomo è una riproduzione quasi pari, quasi uguale, insomma, con macchine, con costrutti, con artefatti, magari sintetici di altri materiali, ma esattamente degli stessi organi dell'uomo. Anche nel film Terminator, altro film più o meno di quel periodo lì, insomma il primo Terminator, non quello con Schwarzenegger, in cui c'è una scena famosa, due scene famose in cui questo viene sparacchiato in giro, arriva nella sua stanza di albergo e si ripara da solo, no? Si ripara da solo, si taglia il braccio, voi dentro il braccio vedete una serie di levette, ecco, quella è una replica, che cosa sono? Quelle sono delle levette metalliche che simulano esattamente la funzione dei muscoli abduttori e di vario tipo, uguale, identico, quella è una cosa, cioè come piega la mano Terminator, la piega esattamente come la piegherebbe un essere umano, solo che al posto dei muscoli che sono materia organica ha delle bacchette di ferro. Idem l'occhio, sì, c'è questa scena un po' horror terribile in cui si cava l'occhio praticamente, che è una specie di telecamera evidentemente che fa la funzione dell'occhio. Insomma, ecco, allora, cioè, questo è il metodo della replica. Guardo come sono fatti gli organi del corpo umano, vedo che funzione hanno, li replico con delle macchine, metto al posto delle macchine, ma sono esattamente, c'è una ideale corrispondenza uno a uno tra il corpo dell'androide e il corpo dell'essere umano, e questa è una questione di imitazione. Questo nel mondo della fantasia. Nel mondo della realtà, cioè delle realizzazioni tecnologiche, la tappa successiva più o meno della, diciamo, cibernetica si chiama intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è quel ramo, quella branca. Per esempio io. Adesso vediamo perché molti pensano che sia impossibile, molti pensano che l'intelligenza degli esseri umani o in generale le caratteristiche degli esseri viventi siano strettamente legate al corpo che le esprime, e quindi che sia impossibile non fare in genere degli, come dire, degli esseri intelligenti, ma degli esseri che sono intelligenti come gli esseri umani o come gli animali, insomma, che poi gli animali non c'è una differenza di, diciamo, di scala, ma non è che gli animali sono stupidi, anche, sono anche altri animali che sono intelligenti, ma non solo la scimmia, ma anche i tapiri, anche tutti gli animali hanno dentro di sé un corpo di intelligenza. Allora, l'intelligenza artificiale anch'essa comincia a, cioè quando si sviluppa, cioè il tentativo di costruire dei software questa volta, quindi siamo nel campo puramente della, diciamo, dei costrutti immateriali, che poi hanno degli effetti materiali solo perché vengono fatti girare su certe macchine e quindi mettono in una cosa. Ma diciamo, l'intelligenza artificiale è il tentativo di costruire dei software che possano essere paragonabili al comportamento umano nell'affrontare e risolvere problemi. Bene, anche qui si creano due diversi metodi per realizzare questa eventuale intelligenza artificiale. La prima è quella di studiare bene il funzionamento del cervello e replicare, fare un modello matematico, softwareistico, algoritmico, trovare insomma degli algoritmi, perché così funziona un computer, sono i programmi non sono altro che traduzioni di algoritmi. Un algoritmo è una procedura specificabile esattamente passo per passo, no? Che dica come raggiungere un certo obiettivo descrivendo in maniera esplicita tutti i passi. Gli algoritmi sono noti sino dai tempi della matematica greca, per esempio uno dei più famosi è l'algoritmo di Euclide per trovare i numeri primi. È un algoritmo perché ti dice, sono quattro passaggini, ti dice come devi fare. Ma un algoritmo è anche le seguenti frasi. 1. Parti da un punto qualsiasi. 2. Cammina in linea retta fino a che non trovi un ostacolo. 3. Quando trovi un ostacolo, gira a destra. 4. Quando trovi un secondo ostacolo, gira a sinistra. Questo è un algoritmo, se voi lo mettete in pratica, fate una passeggiata. Questo è l'algoritmo della passeggiata. Fare una passeggiata è un'attività molto depurata da un sacco di altre cose, ma algoritmizzabile. Quelli che pensano che l'intelligenza artificiale sia impossibile, Fabio, come me, è perché dubitano che l'intelligenza umana sia algoritmica. Io dubito che l'intelligenza umana sia descrivibile tutta in termini di algoritmi. Una passeggiata si può descrivere con un algoritmo. Il procedimento mentale con il quale io 7 anni fa decisi di dire di sì a Paolo Rosa, che mi chiedeva di venire ad insegnare all'Accademia invece di mandarlo a fanculo, questo processo non credo sia algoritmizzabile. Non credo che possa esistere un algoritmo che descrive esattamente quello che io ho pensato nel giro di 2 o 3 giorni e perché ho preso la malaugurata per me e per voi decisione di venire ad insegnare qua. Non è algoritmizzabile, non c'è un algoritmo, è un sogno quello di c'è. Ed è una interpretazione riduttiva, non perché sono convinto che esista una sostanza chiamata spirito, ma perché sono convinto che l'organo materiale e biologico della gestione del corpo degli esseri umani, chiamato cervello, non funzioni per algoritmi. Funziona in maniera diversa, funziona con una serie, anche a livello puramente materiale, con un intreccio di processi materiali tutti, ma non direttamente algoritmizzabili, e in cui comunque l'imprevisto, l'incertezza, eccetera, gioca un ruolo costitutivo, non accessorio, costitutivo. Io credo che non sia necessario essere degli algoritmisti per essere materialisti, questo è il mio punto di vista. Quindi io non sostengo che l'intelligenza artificiale è impossibile perché sono convinto che esista una sostanza chiamata spirito o anima o cose di questo genere soffiata da Dio nei nostri poveri corpi di fango, per cui questa cosa sarebbe questa. Sono convinto che non sia replicabile con un inciso. Dopodiché, se esce fuori un computer quantico che funziona in maniera diversa da questi computer qua, sono ovviamente disposto a rivedere la mia composizione, ma date le macchine che abbiamo adesso e date quelle che presumibilmente avremo in un prossimo futuro, qualcuno comincia a parlare già di computer quantistici, il mio amico De Kershove è molto più entusiasta di me dei computer quantistici, secondo me perché è un po' più superficiale su questo punto, non mi permetterei mai di dire che De Kershove è una persona superficiale, ma su questo punto è un po' più superficiale, perché diciamo che i computer quantici, cazzo, no, aspetta prima, cioè, vediamo qua se ci fanno vedere qualcosina, sono meno scettico sul teletrasporto. Il teletrasporto con grande gioia dei fan di Star Trek è stato già realizzato, è stato già teletrasportato un atomo da una stanza ad un'altra stanza in un laboratorio di Londra. È pochino, questo non vuol dire che c'è una macchina che prende uno di voi, però un atomino l'hanno fatto, un atomino. Avevo l'atomo. Hanno fatto una cosa algoritmica. Però comprese alcune proprietà particolarissime di quell'atomo, compreso il suo spin, eccetera, quindi non una cosa qualunque. Ne distruggo uno là, ne faccio un altro uguale là. No. Hanno ricreato a pochi metri di distanza. E l'hanno ricreato sulla base della distruzione di quell'atomo che stava lì, cioè contemporaneamente hanno distrutto quell'atomo che stava dentro questa macchinetta e ne hanno ricreato un altro uguale, comprese tutte le proprietà, neppure le più bizzarre, con gli spin dei quark tutti uguali. Parlo turco? Sì, insomma. Sì. Allora, voi sapete che le particelle elementari non sono state già distrutte, non esistono, protoni ed elettroni non sono più particelle elementari, ogni protone, l'elettrone no, è rimasto per i cazzi suoi, ma i protoni e i neutroni, che fa, cioè nel senso che è rimasto unico, non è più divisibile, ma i protoni e i neutroni del nucleo, che 100 anni fa si pensava fossero particelle indivisibili, che sono stati formati di tre particelle di tipo diverso chiamate quark. Ogni quark ha uno spin, cioè una direzione di rotazione o a destra o a sinistra, come anche ogni elettrone e ogni protone. Il neutrone mi sembra che non ce l'abbia, però vorrei dire una cazzata. È possibile distruggere un atomo di idrogeno da una parte e ricrearlo dall'altra, ma non era possibile sino a 2-3 anni fa fare in modo che lo spin dico l'atomo di idrogeno perché è il più facile di tutti, sta un protone nel nucleo e un elettrone in giro. Non c'era modo di avere lo stesso spin per il protone e per l'elettrone tra l'atomo di arrivo, l'atomo di partenza e l'atomo di arrivo. L'esperienza del teletrasporto fatta ai laboratori Cavendish due o tre anni fa, invece ha replicato esattamente gli spin dei costituenti dei protoni, quindi dei quark, che hanno anch'essi uno spin, e sono tutti uguali. Perché c'è un principio molto complicato e molto strano in fisica quantistica, che è il principio di Pauli, che è incomprensibile come quello di Heisenberg, ma adesso lo sto portando fuori, adesso smetto, per il quale due particelle, due elettroni, che abbiano interagito tra loro in un certo istante e quindi abbiano cambiato il loro spin a seguito di questa interazione, quando vengono allontanati l'uno dall'altro e spostati, mettiamo uno nella Via Lattea e l'altro nella nebulosa di Andromeda, quando quello della Via Lattea ricambia spin per i cazzi suoi, anche quello di Andromeda lo cambia. È una roba che uno dice, ma come fanno? Come fanno? E sono i misteri della fisica quantistica questi, comunque. Allora, tornando a noi, quando si riuscirà a gestire tutte queste robe così, vedo che concordate con me, abbastanza bizzarre, e a farne un computer Allora probabilmente Caron IA rivedrà la sua posizione sull'intelligenza artificiale, fino a che i computer attualmente esistenti sono quelle ferraglie che abbiamo noi ora. Trovo che sia una cosa di buon senso dire che una cosa così non sarà mai, ma neanche lontanamente intelligente come, non dico come un essere umano, ma neanche come un orso, neanche come un tapiro, neanche come un gambero, neanche come un paguro, un Bernardo l'Eremita, forse come una meba, forse, ma non credo che anche la meba sia più intelligente di questo. Intelligente, cioè capace di prendere decisioni senza far crash contro il muro, se c'hai una cosa, allora, voi tutti sapete che il problema, spero che lo sapete, se no ve lo dico io, uno dei problemi fondamentali di sti cazzo di robottini che fanno i giapponesi che puliscono per terra è quello di che cazzo fa quando incontra lo spigolo, incontra l'angolo, o quando Gigetto ha lasciato una pallina sul pavimento e questo incontra la come dire, pallina. Questi devono fare, a volte tu li vedi, stanno un minuto, poi alla fine decidono che vanno a destra, a sinistra, che cazzo di pace. Ma insomma, allora, e questo è un robotino che deve soltanto decidere cosa fare quando c'ha una buccia di banana contro, ce la dava contro, ma che è, com'è possibile, cioè, l'intelligenza, mi fanno ridere, insomma, cioè, non... Allora, metodo imitativo, tentare di riprodurre un essere umano che, un essere umano, pezzettini dell'essere umano, le cui parti artificiali siano esattamente la copia di quelle naturali, riprodotte per imitazione. Ovviamente c'è un altro, c'è un'altra via per tentare di costruire. Il fatto che io non sia convinto non voglio dire che non sia interessante studiarla, è interessantissimo studiare l'intelligenza artificiale, perché, anche se tu sei convinto, perché attraverso questo scopri un sacco di cose, anche se ti siete, però dico, dal punto di vista finale questa è la mia posizione. Allora, altri metodi di intelligenza artificiale sono quelli per esempio realizzati tramite le cosiddette reti neurali. Qual è questo principio? Si può chiamare il principio di emulazione o il principio, come possiamo chiamare, emulazione o diciamo per dire in breve il principio del risultato. Come diceva Mao Zedong, non importa che il gatto sia bianco o nero, basta che acchiappi il topo. E così un approccio di intelligenza artificiale potrebbe essere: non importa come la macchina raggiunge l'obiettivo, basta che lo raggiunga, e potrebbe raggiungerlo senza replicare esattamente il modo in cui lo fa l'essere umano, basta che lo faccia. Un esempio tipico di questa cosa, che dimostra chiaramente che non sono macchine intelligenti, per esempio sono i grandi software per giocare a scacchi, uno dei quali ha, come sapete, 10 o 15 anni fa effettivamente battuto, dopo un tot di partite, un campione mondiale che è Bobby Fischer. Ma siccome noi sappiamo come funzionano questi software e sappiamo benissimo che non funzionano esattamente nel modo che funzionano gli esseri umani, però riescono in un campo limitato come quello degli scacchi, del gioco degli scacchi, che è molto complesso ma algoritmizzabile, è un algoritmo quello, certo. E allora, basandosi sulle caratteristiche del gioco degli scacchi, si riesce senza ragionare come gli esseri umani, ma ragionando tra mille virgolette come i computer deterministici, a battere Bobby Fischer. Perché? Perché Big Blue, cioè il programma dell'IBM che giocava a scacchi, sviluppando una potenza di calcolo immensa, perché è un bestione, non è un mainframe equivalente a diverse migliaia di computer, di personal computer normali, fa un semplice e banale calcolo a tappeto delle conseguenze di ogni mossa possibile data una certa configurazione. È calcolato, certo. È ovvio che, cioè, pensa, macina, arriva, non mi ricordo più qual era il numero, mi sembra più di 10, tipo 15 o anche 20 mosse successive, cosa che nessun giocatore di scacchi, neanche il più bravo, neanche il migliore, è in grado di fare. Che, perché in genere vince l'uomo e non vincono queste macchine qua? Perché nella bontà, nel valore di un bravo giocatore di scacchi non c'è solo, c'è ovviamente il bravo giocatore di scacchi è in grado di prevedersi, quando io gioco a scacchi, se ce la faccio arrivo forse a capire la seconda mossa, lo capita dopo due mosse, io, sono un poverino, quindi non posso. Quello però arriva fino a 5, 6, 7, non so quanto, ma insomma meno di 10 sicuro. Ma non è solo questo, non è solo la capacità che ha il giocatore di vedere, è anche in qualche maniera, e questo è in dubbio, è stato già messo in vari studi, è anche una, diciamo, un acume psicologico che ha il giocatore di capire contro chi gioca. Chi gioca a scacchi, anche ad alti, a bassi livelli forse si vede poco, si vede anche a bassi livelli, ma ad alti livelli si vede, ogni partita di scacchi ha uno stile, viene giocata contro una persona che ha uno stile è qualcosa di indefinibile, eccetera, eccetera, ma perché vuol dire che nella scelta che tu fai, cioè perché muovi quell'alfiere, uno dice no, già devo muovere l'alfiere qua, ma perché vada qua, il pedone là, eccetera, perché fai prima l'alfiere e poi il pedone, oppure perché fra due strategie che ti paiono equivalenti ne scegli una, per ragioni di bellezza, di cosa che tu percepisci come bellezza, di interesse, di scacchi per anche la cosa del tempo, certo, ma perché in genere irrazionalmente, quindi non sulla base di decisioni algoritmiche, gli esseri umani scelgono una cosa piuttosto che un'altra. Moltissime, la gran parte delle nostre decisioni, anche quelle che noi pretenderemmo siano razionali, in realtà non sono razionali. Sono dettate da un complesso di questioni, emotività, cose del genere. Il campione di scacchi è quello che riesce magicamente, in un modo che mi spiace ma è indescrivibile, non è algoritmizzabile, a realizzare un mix di previsione scientifica, razionale delle mosse, eleganza della partita, efficacia, riesce a giocare anche i suoi fattori emotivi in modo da vincere. Tutti questi fattori Big Blue non li poteva avere e non li ha, una macchina non li può avere con tutta la buona volontà del mondo, che noi possiamo fare in modo che questa simuli delle cose, ma non ce l'ha, c'è poco da fare. E quindi in certi casi è stato dimostrato, può essere che a scacchi una macchina vince, è vero, ma adesso poi non ne hanno più fatte dopo, perché la mia convinzione è che se facessero giocare Big Blue contro, per un anno di fila contro una grande quantità di giocatori di un buon livello, la macchina perderebbe quasi sempre, ci sarebbero casi isolati in cui riesce a vincere per una cosa, ma in genere perde perché non è in grado di mettere in campo quelle altre risorse che non sono razionali, che sono extra razionali, che sono extra linguistiche, che sono emotive, che sono istintuali, che sono cose che non sono descrivibili con algoritmi, insomma questo. No, ne ha giocate tre, no, allora, si dice che ha vinto perché ne ha giocate tre e ne ha persa una, ne ha vinta una e ne ha pattata un'altra, cioè sono di pari, e l'ha pattata in modo che Fischer aveva dichiarato, io ero convinto di vincere, e quindi là si è pattata. Si dice che Big Blue ha vinto contro Fischer perché su queste tre partite ne ha persa una, ne ha vinta una e ne ha pattata un'altra. Contro l'Ipacè, perché si erano accordati che se ne avesse vinte due, persa una, si sarebbe detto che aveva vinto Fischer. Se fosse stato il contrario, 2-1 che aveva vinto la macchina, la cosa si era presentata questa terza, se non mi ricordo male, può darsi che mi sbaglio, ma io l'avevo ricostruita così, che c'era questa, diceva una l'ha fatta patta. Allora è stato Fischer, devo dire, che con grande intenzione, no, dice io quella lì pensavo di vincerla. E quindi il fatto che con la macchina abbia fatto patta è stato una storia della macchina, insomma, in qualche modo è riuscita a non perdere e quindi va bene, allora ha vinto la macchina, è un grande fatto indubbiamente, nessuno lo sottovaluta, però ripeto, se queste rocce, poi dopo non le hanno più fatte, però non hanno più cominciato. Cattaro è là, prima che la macchina vincesse ne hanno fatti un sacco, certo, Kasparov ha sempre vinto contro la macchina. E Fischer, avendo vinto Kasparov, era convinto, dice cazzo, ce la faccio, no? Quando Fischer ha perso in questo modo che vi ho detto, che può essere non come vi ho detto io, ma insomma una roba simile, che era più di una partita, erano un 3 mi sembra, sì, era la cosa era 3. Da quale l'IBM ha deciso che Big Blue non giocava più. Se non ricordo male, le ragioni che furono addotte furono perché non, anche no, buone etiche, cioè perché non si alimentino più fantasie sulla macchina. Beh, io sospetto molto più, no, ma perché è così, sospetto che avessero paura di dimostrare, perché sino a che con la cosa di Fischer loro hanno, cioè, come dire, Big Blue era di 2 anni prima, credo, ha fatto 2 anni di partite, non so quante ne ha fatte, contro varia gente, contro alcuni di basso livello ha vinto, ma contro di me Big Blue vincerebbe comunque, grazie al cazzo, io non arrivo, cioè è ovvio insomma, cioè, contro un giocatore di basso livello, adesso io ho 30 anni che non gioco a scacchi, quindi sono anche arrugginito, insomma quando ero giovane un po' di tanto. Gli studenti di matematica si fanno tutti una cosa, diciamo, tutti lo studio per scacchi, perché è una cosa, quindi anch'io ero preda di questa cosa qua, poi ho smesso dopo. Anche quando ho fatto politica, però per qualche anno ancora ho continuato a giocare. Leggere romanzi era quasi proibito facendo politica, giocare a scacchi non proprio. Quindi ho smesso di leggere romanzi e ho continuato a giocare a scacchi. È andata così. Quindi io sospetto che loro avessero paura che in realtà continuasse la serie negativa. Fino a che la serie era negativa, loro hanno potuto dire andiamo, proviamo. Quando sono incappati in questa botta di culo, se posso dire, estremamente così, di sconfiggere Fischer, il campione del mondo, dice cazzo, adesso abbiamo dimostrato che ora passa, perché se facevano una statistica su un periodo più lungo, si sarebbero accorti che le vittorie sono certamente possibili, ma non sono frequenti, non sono la regola, cioè sono delle botte di culo, certo, e questo comunque avviene perché il gioco degli scacchi è un gioco il cui funzionamento è puramente algoritmico, cioè non è il poker e neanche scala 40, perché non c'è alcun, c'è un solo elemento casuale nel gioco di scacchi ed è se ti tocca il bianco o il nero all'inizio. Per il resto la disposizione dei pezzi sulla scacchiera è fissa, è sempre uguale, le mosse sono quelle, algoritmo totale. Quando fai un gioco di carte, no, un gioco di carte non è algoritmizzabile, non dico il bridge, ma neanche scala 40, perché? Perché distribuisci le carte, e distribuire le carte vuol dire introdurre un elemento aleatorio, stocastico, casuale, chiamatelo come cazzo volete, per cui non ci può essere un algoritmo che descrive, c'è un algoritmo che descrive il funzionamento, cioè come dire, le regole, in tutti i giochi le regole sono algoritmizzabili, anche nella campana, che il gioco del mondo, come si chiama, quello che facevate voi quando eravate piccoli, io non l'ho mai fatto, anche quello è un algoritmo, però non è un algoritmo, diciamo, le regole, ma il gioco concreto non è algoritmizzabile, perché se vi viene il piede sulla cazzo, dove sta l'algoritmo? Cioè, non esiste. Allora, il secondo metodo è un metodo, diciamo, che io chiamerei di emulazione o metodo del risultato. Portiamo a casa l'obiettivo anche senza copiare esattamente il modo in cui ci arriva l'uomo, con un modo diverso. Ripeto, le macchine che giocano il software per giocare a scacchi sono un esempio di questo. Le macchine non giocano a scacchi come gioca l'essere umano, ma in un modo diverso, cioè limitandosi a essere in grado di prevedere molte più mosse di quante può prevedere l'uomo, ma senza alcun'altra considerazione. Quindi è una qualunque macchina. I cosiddetti circuiti neurali, che sono stati verso gli anni 80, fra gli anni 80 e i primi anni 90, una delle grandi promesse dell'intelligenza artificiale, le reti neurali, neural network, i neural network, sì, sono semplici, sono programmi di computer, si chiamano neurali soltanto perché simulano vagamente piccole configurazioni di neuroni. sono costruite, la loro architettura grosso modo è questa, sono simili ad altre macchine chiamate automi cellulari, la cui più famosa forse avete visto qualche volta il gioco chiamato Life, che è una roba in cui si parte da una configurazione aleatoria iniziale e ci sono tanti, lo schermo è suddiviso in tanti quadratini, ognuno dei quali si chiama automa, e c'è una regola di funzionamento di questo automa. Questi quadratini sono cellule, in gergo informatico sono cellule, e si danno delle regole di evoluzione di questo coso. Se non vado errato, queste erano le... Vi parlo di Life perché poi io non l'ho più, sono seguito a sta roba, quindi è quello che conoscevo io negli anni 80. Sicuramente ora ce n'è di molto più, però insomma, gli automi cellulari sono una teoria degli anni 70. Questa l'avevo comunque studiata. Allora, sono dei quadratini, quindi ogni quadratino è circondato da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con gli angoli, è in contatto perlomeno con un vertice con 8 quadrati che lo circondano. Okay? Ogni quadratino può essere on o off, 1, 0, acceso o spento. La regola di questo automa cellulare mi pare che sia: il quadratino si accende se sono accesi almeno 5 degli 8 quadrati intorno a lui, altrimenti si spegne. Data una distribuzione casuale iniziale, che può consistere anche in tutti spenti tranne uno o tutti accesi tranne uno, questa situazione evolve, perché c'è una legge, il computer calcola esattamente quadratino per quadratino la situazione, e quindi a ogni... c'è un, diciamo, i passi successivi si chiamano generazioni in questo caso. Questo gioco Life era particolarmente, perché era semplicissima la regola, ma era studiata bene, perché la gran parte, perlomeno delle configurazioni iniziali testate, portava a una situazione aperta, cioè il gioco non aveva mai fine. Il gioco aveva Life, come comunque gioco di questo tipo, un automa cellulare cessa il suo funzionamento quando la regola o le regole che governano la vita di questo automa arrivano a una configurazione per cui l'applicazione successiva non cambia nulla rispetto alla configurazione. Allora Life in qualche caso, come si dice, si piantava, cioè arrivava a una configurazione finale, quindi il gioco si piantava, ma nella gran parte dei suoi dati invece evolve, cioè è un gioco infinito, cioè non si è mai trovato perlomeno in ore, giorni, mesi di funzionamento, in molti casi una fine di questo gioco, e in molti casi si creavano delle figure veramente bellissime, tra cui io ci ho giocato per un anno o due. I primi tempi che avevo il computer, quindi era l'89-90, cioè, e venivano quando usciva l'aquilone di Conway, era bellissimo, perché a questo punto c'era una configurazione, si creava spesso, di quadratini tutti quanti accesi, più o meno, che sembravano vagamente un uccello, cioè con due ali, una roba un po' così. Ma la cosa miracolosa, chiaramente era naturale, ma la cosa bella era che questo aquilone migrava nello schermo, cioè si spostava senza perdere la configurazione. Era una roba stranissima, perché è ovvio che a ogni generazione cambiano, ci sono tante figure, erano complicate, erano molto piccoli questi quadratini, quindi su uno schermo, anche fai conto gli schermi della fine degli anni 80 che risoluzione potevano avere, no, meno di 640 per 800, metti 320 per 250, che era una, grosso modo era fatto così, e quindi erano tanti questi quadratini, e venivano, cioè era una bella, era bello vederli, insomma, e quando veniva, quando ci veniva, cioè, quelli di noi che ricordavamo, ci dicevano, cazzo, mi è venuta, allora fotografavamo lo schermo per far vedere l'aquilone, eccetera, perché veniva per caso, non potevi mai sapere quando veniva, ma quando veniva l'aquilone, e questo aquilone migrava, è l'unica figura, poi c'erano, certo, a volte ti capitava che configurazioni più semplici, tipo tre cose in fila migravano, ma era la calzatina quella, non era, ma l'aquilone di Conway, perché aveva scoperto questo Conway, che non era il... quello che aveva creato il gioco. Vabbè, insomma. Allora, questi sono automi cellulari. Le reti neurali sono delle specie di automi, diciamo cellulari, costituiti da strati di cellule, cioè di unità, diciamo, come dire, zone di pixel sullo schermo, che corrispondono nel computer a particolari zone di memoria, vengono messi in relazione a queste zone di memoria. Si dà una... anche qui, anche nell'automa, diciamo, cellulare, ci sono di norma due configurazioni, diciamo, di base per le cellule, per i costituenti, messi, ripeto, in strati. Quindi mettiamo un automa cellulare, una rete neurale semplice potrebbe avere, per esempio, 20 cellule, una fila di 20 cellule replicata 10 volte, diciamo 10 file di 20 cellule l'una. La regola costitutiva dice, spiega come in un modo simile, non adesso è un po' più complicato, ma è simile alle leggi degli automi cellulari, quindi per esempio quella di Life, come se deve essere accesa o spenta una certa cellula in relazione a quello che capita alle cellule vicine. Essendo su una riga è più semplice perché sono solo tre, quindi la prima è la luce. È qualcosa di simile ad un modello informatico di una macchina di Turing, cioè della macchina teorica pensata da Turing negli anni 30, prima che si costruisse il computer specifico di von Neumann, che consisteva in questa macchina ideale con un nastro infinito diviso in caselle che scorreva sotto una tettina di lettura, e la lettura di questa ipotetica macchina faceva cambiare stato alla cellula secondo al diciamo quadratino alla cella di nastro in relazione a certe leggi. Questo è il primo modello concettuale di un computer inventato da questo matematico inglese Alan Turing, che collaborò poi nella Seconda Guerra Mondiale alla decifrazione del famoso sistema informativo tedesco chiamato Colossus, con la macchina detta Enigma, che fu in realtà probabilmente una delle ragioni per la quali il successo degli inglesi più degli americani, però c'erano anche americani in questa attività di contro situazionaggio, fu non sicuramente l'unico, ma una delle ragioni per cui le potenze occidentali vinsero la guerra contro Hitler, al di là di tutte le altre cose, perché i tedeschi avevano un sistema informativo veramente ed erano in grado di intercettare nella guerra sul mare. Insomma, i sostanzialmente tedeschi colpivano quasi sempre a colpo sicuro, perché sapevano dove stavano le navi da guerra inglesi, e gli inglesi non sapevano dove stavano quelle tedesche, quindi c'era uno stato di chiara inferiorità. Verso il 40, alla fine del 43, non solo gli Stati Uniti riescono a mettere in difficoltà i giapponesi nel Pacifico, ma contemporaneamente anche la marina inglese e quella americana hanno i primi successi. Perché che cosa è successo? Perché un gruppo di matematici inglesi era messo nel 42, dal 41 credo, al lavoro duro sulla decifrazione, e costruiscono una macchina che è l'antenato dei moderni computer, che non è un vero e proprio computer, perché intanto è una macchina analogica e non digitale, poi aveva delle caratteristiche un pochino diverse, ma insomma che era come fosse un computer dedicato, cioè faceva solo quello, pigliava Colossus e attraverso un enorme mole, e insomma, Turing è uno di quelli che fanno parte di questo. Poi Turing, siccome era omosessuale, e l'Inghilterra aveva, ed ha forse ancora, ma aveva all'epoca delle leggi bestiali e stronze sull'omosessualità, perché Dio se li fotta, maledetti, e insomma gli fece un processo per omosessualità e lui subì una castrazione chimica, cioè le cose che quelli della Lega vogliono fare agli stupratori, e dopodiché insomma Turing si suicidò. È una storia tristissima, perché Turing è stato una delle menti più... Turing credeva ovviamente nell'intelligenza artificiale, perché una delle menti più belle del Novecento, distrutta da una legislazione del cazzo, perché perché essere omosessuali era un reato. Va bene. Cosa? No, si è ucciso lui. Si è ucciso lui perché cazzo, perché non ce la faceva. Perché era una persona sensibile, perché era un personaggio introverso, stranissimo. Cioè, c'è la biografia sua di 800 pagine, un personaggio affascinante, molto... Cioè, è una cosa stupida dire di uno che è una persona molto umana, ma insomma, diciamo ricco di una umanità complessa e bella, insomma, bella. Insomma, a me piace, sono personaggi che mi piacciono nonostante tante contraddizioni che potevano avere. Va bene, allora le reti neurali che cosa fanno? Tu dai un problema ad una rete neurale, cioè gli dai una configurazione iniziale e gli dici arriva a questa configurazione finale. Che ne so, acceso, spento, acceso, acceso, acceso, spento, acceso, spento, acceso. Una cosa banale, no? Che poi possono, una singola rete neurale può essere la simbolizzazione di un certo problema, che uno può, però diciamo, sono strutture matematiche totalmente astratte. Il compito della rete neurale è quello di evolvere, trasformarsi in modo da arrivare dalla configurazione iniziale che il ricercatore gli dà alla configurazione finale che il ricercatore gli dà. Come fa una rete neurale a fare questo? Il segreto delle reti neurali, ed è per quello che i ricercatori erano così convinti che fosse una cosa centrale per l'intelligenza artificiale, era che alla rete neurale era connesso un software in grado di cambiare le regole. Cioè, la rete neurale può sperimentare. Dice, vediamo se lui fa un primo tentativo sulla base di un certo set di regole di cambiamento e di evoluzione. In genere scopre che non arriva al risultato finale. A questo punto il programma della rete neurale si dice ricomincia e cambia le regole qui, qui e qui, o si dice anche cambia le regole dove cazzo ti pare a te, cioè quindi la rete neurale ha incorporati dei rudimentali meccanismi di scelta che sono in realtà meccanismi casuali, cioè diciamo generazioni di numeri random a seconda dei quali non è propriamente un ottimo modello per simulare come gli esseri umani fanno le scelte, insomma, però le macchine le possono fare soltanto così. I primi anni di ricerca su queste reti sembrarono promettenti perché nelle prime generazioni di reti neurali ci fu una, adesso le cifre che vi dico non so se sono esatte, non mi ricordo, ci sono dei libri, questa roba, diedero una percentuale di successo, se non ricordo male, intorno al 20%, cioè su 10 casi, in 8 casi fallivano, in 2 casi portavano a casa il risultato, che era molto promettente perché diciamo software più tradizionali avrebbero avuto percentuali ancora inferiori. Successivamente nella seconda generazione di reti neurali venne introdotto un meccanismo, come dissero i ricercatori, di ponderazione, per arrivare a decidere quali regole adottare nel passo successivo, veniva fatta una valutazione non di tutte le celle come se avessero la stessa importanza, ma con importanze diverse, cioè ad ogni cella veniva associato un peso, diciamo un numero compreso fra 0 e 1, a seconda del quale numero, generato secondo procedimenti interni alla rete neurale, le scelte collegate con quella certa cella pesavano di più, erano più importanti, influivano maggiormente sulla scelta successiva di quelle di altre. Insomma, era un tentativo sempre più raffinato di dare di costruire delle macchine che risolvessero problemi, quindi che fossero in grado di partire da un punto e arrivare a un altro, ma senza, cioè non c'era in queste reti neurali non c'era nessuna imitazione del modo che hanno gli esseri umani di risolvere problemi, era un metodo totalmente diverso. La cosa importante era portare a casa Adesso, se non ho capito male, dopo l'iniziale entusiasmo, anche le reti neurali, che tra gli anni 80 e gli anni 90, vi ripeto, sembrarono essere la nuova frontiera per lo studio dell'intelligenza artificiale, tutti i miglioramenti successivi non sono mai stati in grado di migliorare la loro efficienza da questo, io dico 20%, adesso non lo so se fosse 20, 15, 25, non mi ricordo, insomma. Comunque una cifra, una, come dire, percentuale di successo che a noi sembra bassa, a noi, come dire, profani, ma che magari invece per un osservatore era promettente, perché andava là. Neanche questo. Comunque, diciamo, queste sono grosso modo le due strategie. Abbiamo fatto quasi tutti adesso esempi di metodi, diciamo, scusate, di dispositivi tecnologici realmente esistenti. In realtà un discorso analogo ma non uguale, potremmo farlo per le creature di fantasia, per gli esseri artificiali immaginari. Ovviamente con l'avvertenza che, come dire, degli esseri immaginari noi non conosciamo quasi mai, per forza di cose, insomma, i metodi di fabbricazione. Cioè, il massimo che ci può capitare è massimo, uno dei casi più in cui tutto sommato si spiega bene è proprio Frankenstein. Cioè, prendi i pezzi di cadaveri, li metti insieme, li cuci, poi fai passare la corrente elettrica e questo crea l'essere, crea la vita nell'essere umano. Come dice, ricordatevi la bellissima scena di Frankenstein Junior in cui Gene Wilder, quando arriva la cosa, grida, è vivo, hanno preso in giro, quindi è uno dei film migliori su Frankenstein, mi pare questo, perché è quello più parodistico. In altri casi meno ancora, in Do Androids Dream of Electric Sheep, in generale nelle opere di Philip Dick non si descrive mai neanche fantasiosamente un modo con cui si dice c'è una fabbrica che fabbrica esseri umani sintetici, insomma, non. Anche l'opera che introduce il termine robot, che deriva dalle lingue slave ed è un'opera del boemo, cioè del ceco Karel Čapek del 1920 o 21, che si chiama Rur Rossum Universal Robots, i robot universali di Rossum, neanche Čapek nell'opera che inventa il termine robot descrive come era fatta questa, descrive anche fantasticamente, certo, come era fatta questa misteriosa e miracolosa sostanza di cui erano fatti questi robot, questi esseri umani sintetici e artificiali. La questione imitazione-emulazione, cioè la questione replica del metodo o accento sul risultato, in realtà nelle opere di fantasia si trasferisce su di un altro problema, un problema che nasce sino da Frankenstein, cioè sino dalla nuova generazione, diciamo, che poi insomma la vita nell'immaginario degli esseri artificiali è di un certo tipo prima di Frankenstein, e con Frankenstein cambia, insomma, comunque si apre una nuova epoca. Possiamo chiamarla o non chiamarla fantascienza, quella del romanzo della Shelley. Io preferisco non chiamarla fantascienza, che preferisco riservare il termine fantascienza al sistema, come dire, commerciale, al genere letterario commerciale, cioè quando è stato effettivamente coniato il termine fantascienza, cioè negli anni 20, negli Stati Uniti, anzi più precisamente nel 1926, quando nacque la prima rivista di fantascienza, American Stories, negli Stati Uniti, e eventualmente a 10 o 20 anni prima, insomma, diciamo, non parlerei di fantascienza prima degli inizi del Novecento. Si può dire che c'è una tradizione del romanzo utopistico colto che è simile a quella della fantascienza nell'Ottocento, di cui fa parte Frankenstein, di Mary Shelley, di cui fa parte Lève Futur, di Villiers de l'Isle Adam, alla fine dell'Ottocento, e che arriva sino a Ruhr di Karel Čapek, commedia, opera teatrale che introduce e inventa il termine robot. Comunque sia, con questo non voglio dire che non ci sia una parentela tra la letteratura, cioè neanche Verne e Wells fanno fantascienza, secondo me. Neanche i romanzi di Verne, se non in maniera retrospettiva, certo, sono i padri della fantascienza. Bisogna aggiungere Edgar Allan Poe, che molti anni prima sia di Verne che di Wells negli Stati Uniti, già negli anni intorno al 1840, scrive delle opere che sono avvicinabili alla moderna fantascienza pochi anni dopo l'apparizione del romanzo della Shelley, che è del 1816. Chiusa l'excursus più o meno vagamente storico per spiegarvi quando parlo di fantascienza a che cosa mi riferisco. Dicevo, la polarità, imitazione, emulazione, copiare il metodo, privilegiare il risultato, nell'essere artificiale letterario diventa un'altra cosa, diventa l'interrogativo basilare di quasi tutti i romanzi di Philip Dick sugli androidi. Gli esseri umani artificiali hanno sentimenti umani? Gli esseri umani artificiali sono simili all'uomo solo nelle facoltà cognitive e pratiche o anche in quelle affettive ed emotive? Capite perché sono collegate le cose? Perché in questo senso la commedia di Čapek è chiarissima. Devo fare un excursus precedente. Anche la letteratura del Settecento e del primo Ottocento, prima della Frankenstein, soprattutto alcune letterature, in Germania soprattutto, ma anche un po' in Francia, anche quella letteratura rigurgita di esseri umani artificiali. Il racconto Der Sandman, l'uomo della sabbia, di Hoffman, è del 1780, io non mi ricordo quando, insomma, fine del 700, e racconta di questo automa femminile, che di questa donna, Olimpia, che un giovane scambia per una donna vera, se ne innamora prima di capire che è una donna artificiale, e siccome la cosa è collegata con alcuni suoi incubi infantili e una persona che frequentava, si uccide alla fine, diciamo, Nathaniel. La letteratura del Settecento e la tecnologia del Settecento sono piene di esseri artificiali. Ci sono esseri artificiali sulle pagine dei libri, proto-robot, proto, però non si chiamano robot, si chiamano automi in genere, a volte androidi. Golem è prima ancora. Golem è una... c'entra anche questo, però è una cosa un po', diciamo, parallela, perché non ha una origine né laica né, diciamo, tecnologica, ha un'origine puramente religiosa ed è una leggenda diffusa, sì, probabilmente tra 700 e 800 nel ghetto ebraico di Praga, parlando di fatti avvenuti nel suicidio e attribuiti a un capo rapino effettivamente esistito. Rabbi Löw viene, almeno quando io andai a Praga la prima volta nel 1975-76 e potei ancora visitare il cimitero ebraico, che oggi non è più visitabile, almeno quando andai nel 2002 non era più visitabile, vidi gli ebrei che andavano nei muri, negli interstizi delle pietre, dei muri di questo di questo cimitero ebraico e infilavano dei rotolini di carta che erano le loro richieste a Rabbi Lev, cioè a questo personaggio che viene ancora oggi, in questo secolo venerato tipo Babbo Natale, ma solo che ha veramente distrutto. Babbo Natale se l'ha inventato la Coca-Cola, ma invece Rabbi Lev è stato un grande rabbino nel periodo in cui Praga fu per pochi anni capitale dell'impero austro-ungarico, dell'impero di Asburgo, insomma, la capitale venne trasferita da Vienna a Praga, l'imperatore si chiamava Rodolfo II, e Praga, prima della guerra dei 30 anni, perché poi la guerra dei 30 anni la Cecoslovacchia, finì la Cecoslovacchia, insomma, la Boemia cessa, non ha più ruolo, proprio c'è un tracollo terribile, ma insomma negli anni, in alcuni decenni del XVI secolo, Praga fu una capitale culturale dell'Europa. E però stranamente, insomma, con tutta una serie di leggende collegate, non a caso insomma i triangoli centroterici sono Lione, Praga, Torino o Parigi, insomma, sono vari triangoli. Praga è spesso una di queste cose qua. La nascita della leggenda di Rabbi Lev fu perché Rabbi Lev era contemporaneo di Rodolfo II ed effettivamente contrattò con l'imperatore una maggiore apertura nei confronti degli ebrei. E quindi insomma, gli ebrei sotto Rodolfo II stavano un po' meglio di come stavano prima e dopo. E quindi dopo nacque questa, diciamo, leggenda che è collegata con altre, sì, con altre cose, però ha un'origine un po' diversa da quella degli automi settecenteschi, insomma, poi, di questo essere gigantesco golem costruito come? Costruito replicando esattamente ciò che Dio fa nel Genesi, cioè la creazione di Adamo, prende il fango, lo impasti, invece di soffiare come fa Yahweh nella Bibbia, Rabbi Lev e i suoi assistenti usano delle tecniche cabalistiche, cioè la cabala è una corrente della mistica ebraica nata più o meno nel XII-XIII secolo, non molto antica, in cui sì, tutta la potenza, diciamo, creatrice divina viene simbolizzata dalle lettere e dai numeri. Non, sì, certo. No, attenzione, non dalla parola, non dalla parola, questo già l'aveva fatto Giovanni, quello del Vangelo, no? Dicendo in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et verbum erat Deum, il Logos è Dio da tempo innumerabile, ma la scrittura non era mai stata Dio, diventa Dio in qualche maniera con i cabalisti, con questi mistici ebraici. Quindi Rabbi Lev riesce ad ottenere lo stesso effetto che ottiene Jehovah con il suo soffio creatore, semplicemente recitando delle formule, cioè facendo dei giri intorno a questo mucchio informe di cosi e mettendogli poi un cartiglio, alcuni dicono sulla fronte, altri dicono sulla bocca, nella bocca con su scritta la parola Emet, che vuol dire, se non ricordo male, verità. Emet, o una cosa di questo genere. Come si fa per disattivare, per attivare e disattivare? E questo golem è una macchina, nel senso che si attiva e si disattiva a seconda che gli metti o gli togli questo cartiglio dalla bocca o dalla fronte. Tranne a un certo punto, quando nella fase finale creerà un sacco di casini, come la stampante di Roberto stamattina, che non stampa più perché era bloccata, quindi quando rimane bloccato Rabbi Lev riuscirà, quando non funziona più, togliere e mettere, perché rimane sempre in funzione, allora semplicemente Rabbi Lev gli strapperà il cartiglio dalla bocca e semplicemente strapperà la prima lettera della parola e da E diventerà Met, che vuol dire morte, gliela metterà in bocca e questo crepa. Perché succede così? Perché ovviamente il golem è una delle tante macchine, dei tanti esseri artificiali che si ribellano al loro creatore. E quindi anche il golem fa poi così. E il golem è, arriva, c'è tutta una tradizione, è molto, è bella, ma è un po' complicata, mi porterebbe parecchio lontano da quello che volevo dirvi. Perché quello che volevo dirvi era invece qualcosa di più banale, ma di altrettanto significativo. Ed è che sia, allora, vi stavo dicendo, nel XVIII secolo c'è una grande quantità di esseri artificiali fantastici che popolano soprattutto le opere di autori tedeschi, ma anche di altri cose, ma ci sono anche tante macchine veramente costruite, che sono degli automi. Il XVIII secolo è il XIX è quello in cui si scopre l'uso dell'elettricità, eccetera, eccetera, ma il XVII è quello del vapore. Ed è il secolo nel quale cominciano le prime macchine veramente automatiche. Il capitalismo comincia davvero, cioè diventa un modo di produzione degno di questo nome, non solo alcune piccole innovazioni tecniche qua e là nell'industria tessile e con i primi telai automatici. È la prima volta che non ci sono più le tessitrici a mano, ma delle macchine che fanno il lavoro della tessitrice, e la tessitrice tradizionale o il tessitore si trasforma semplicemente in un essere umano che deve controllare che queste macchine facciano bene, allora quindi deve stare attento, ovviamente deve riannodare i fili quando si spezzano, eccetera, eccetera, ma cambia totalmente il lavoro degli esseri umani, insomma, quindi là. Sono spesso personaggi legati alle nuove tecnologie del tessile, quindi e sono macchine che noi diremmo a schede perforate, cioè hanno dei sistemi come le bacchette del braccio di Terminator, hanno delle bacchette che vanno e vengono, si infilano in certi cartoncini con certi fori e a seconda di come è il disegno di questi fori costruiscono, tessono, producono un tessuto con un certo disegno piuttosto che un certo altro, perché fanno lavorare la trama e l'ordito. Diciamo, l'industria tessile è uno dei primi settori produttivi da cui comincia una iniziale automazione, o comunque cominciano le macchine. È quello che distrugge tutto il tessile artigianale, come dire, precedente, ed è una delle industrie di punta, insomma, come sarà l'industria meccanica o l'industria metalmeccanica nell'Ottocento, così nel Settecento era l'industria tessile. Allora, molti di questi personaggi, molti di questi ingegneri, ancora non c'era la figura dell'ingegnere, ma sono simili, di questi tecnologi, chiamiamoli, gente che si intendeva di tecnica, che lavorava nell'industria tessile, per esempio il signor Vaucanson, i fratelli Jacques Drou, il signor Meillet, erano in gran parte francesi, che la Francia era in questo settore era all'avanguardia, l'Inghilterra poi era stata in grado di utilizzarli meglio sul piano produttivo, ma il centro tecnico era più la Francia che non l'Inghilterra. Questi signori si divertivano e con tecnologie analoghe facevano delle macchinette che facevano delle cose. Alcune di queste macchinette erano esseri umani di porcellana o di metallo, di legno, con dentro delle macchinette allora non so, c'era un ragazzino che suonava il flauto, un ragazzino che suonava il tamburo, una signorina seduta alla cosa che scriveva una lettera, e scriveva davvero, metteva i movimenti, metteva in mano una penna, i movimenti della mano componevano delle parole sul foglio: caro papà, sono qui, sto bene, eccetera, eccetera. Sempre la stessa lettera, è ovvio, però erano. Uno dei più strepitosi di questi inventori fu Vaucanson, e la sua creazione più memorabile e più famosa fu un'anatra. Era un'anatra di metallo a grandezza naturale, che veniva forse un po' più grande anche di un'anatra normale, che faceva un sacco di cose che fanno le anatre davvero, cioè si alzava, era capace di, dicono così le cronache, di stare accovacciata e poi di tirarsi sulle due zampe, muoveva le ali, muoveva la testa ed emetteva dei suoni, ma soprattutto, meraviglia, era in grado di mangiare dei chicchi di cose che tu gli mettevi sotto col becco, di mangiarli e dopo un po' di evacuare, di fare la cacca, addirittura che c'era la cacca. I frequentatori delle fiere erano estasiati da queste macchine, perché erano una delle dimostrazioni che l'uomo era un essere divino, capace di rifare la natura. Di tutti questi automi qua ne sono rimasti, che io sappia, funzionanti più o meno tre degli Jacques Hédreau, che stanno, Jacques Hédreau si scrive, lo so che il francese non vi è, la Z finale non si legge, Jacques Hédreau. Jacques Hédreau erano fratelli, uno, due, tre fratelli, credo. Adesso le tre dei loro automi stanno in un museino piccolino nel paesino svizzero di La Chapelle o Le Châtelet, non mi ricordo più. Da quando è uscito questo cretino di La Chapelle, che pare foto, mi confondo sempre, perché non penso che sia La Chapelle, ma non è La Chapelle, è il vostro cosa del cazzo. Stanno in un paesino in Svizzera, che non mi ricordo, si trova sui libri comunque. E sono la scrivana, la signorina che scrive, il tamburino e il terzo penso sia il flautista, non so, ma sono tre, che fino a 20 anni fa funzionavano, almeno due su tre funzionavano ancora. Cosa? Non lo so perché non ci sono più andato, quindi non so bene. So che era difficile tenere, perché non ci sono più anche gli eventuali pezzi di cambio andavano costruiti a mano, perché ovviamente non c'è più quella tecnologia. L'anatra famosissima, che è il più famoso automa del Settecento di Vaucanson, dell'anatra è attestata l'esistenza fino agli anni 20 del Novecento. Quindi ha attraversato tutto l'Ottocento ed è arrivato a vedere, l'unica è una foto, c'è una foto di questa anatra a Berlino che pare che ancora funzionasse, se non nello stesso modo di Vaucanson, probabilmente era stata ricostruita. Comunque c'è una roba che si afferisce forse all'anatra di Vaucanson, mi sembra qualche anno prima dell'avvento di Hitler al potere, quindi fino agli anni 20 in Germania, dopodiché se ne perdono le tracce e non si trovano, no, non lo so se sia collegato con Hitler o no. L'altro grande personaggio torniamo a un altro esempio, a Bobby Fischer, è il turco costruito da von Kempelen e successivamente Kempelen col K, e successivamente però gestito da un gruppo di Matzel mi sembra si chiami, di cui parla Po in un famoso racconto saggio. Era un turco che giocava a scacchi. Torniamo agli scacchi. Il turco di von Kempelen, o il turco di Meltzer, come si chiama, Po, è una specie di tavola, di quadrato, forse un po' più piccolo di questo, con il turco, con la figura del turco a mezzo buco, cioè dalla vita in su che emerge, la scacchiera vicino a lui e il braccio del turco. Il turco prende i pezzi e li sposta sulla scacchiera e gioca contro gli esseri umani e vince la gran parte delle volte. Anche questo gira per le fiere, eccetera, eccetera. Qua c'è una serie di tendaggi, di tende, che vengono, che il gestore del turco all'inizio dell'esibizione solleva e si vedono una serie di ingranaggi e si vedono anche dei vani che il gestore, colui che gestisce questa cosa, apre e mostra che sono vuoti, poi li richiude, fa girare, cioè il pubblico ha l'impressione che sotto ci siano i meccanismi che fanno andare l'automa, e che siano dei, come dire, meccanismi, quindi che questo toga sia veramente un essere meccanico, il quale però stranamente a scacchi vince. Allora noi ovviamente non ci piglia per il culo nessuno, quindi la conclusione che però devo dire con grande acume trasse già Edgar Allan Poe ovviamente fu che c'era un vano abbastanza grande per contenere non un essere umano di proporzioni normali ma un nano, che sapeva giocare a scacchi, che ci fosse un sistema di specchi dalla cosa che vedeva, che quindi ovviamente il risultato fosse un essere umano un po' particolare, bravo giocatore, quando nel periodo in cui c'era un bravo giocatore il turco vinceva di più, altri vinceva di meno, e che tutto questo trucco e questa cosa servisse semplicemente, gli illusionisti sono famosi, cioè voglio dire, non c'era ancora Houdini, sarebbe venuto di lì a poco, ma c'era già la tradizione dell'illusionismo, Guardi un signore, guardi, no, passa le tre carte, anche quella. Da qui, questa vita, questa parte, questa vita, questa perde, tu tiri su le robe, tu sei entrato nel frattempo, mentre fai casino, il nanetto si è infilato da di dietro, nessuno l'ha visto, si è infilato nel vano che il capo turco ha aperto per primo, e il trucco è fatto e siamo a posto. Leggetevi, se ce la fate, se lo trovate, il testo di Poe, che è molto bello, perché Poe, diciamo, dimostra che non può essere, ovviamente, che, ma per noi è ovvio, ma per la gente dell'Ottocento è molto ben costruito, diciamo, ovviamente anche nel trucco di Kempner si sono mosse, si sono perse le tracce. Allora, tutti questi personaggi, però, come voi vedete, sono tutti dei pezzi unici. Anche Frankenstein è un pezzo unico. Prendi vari cosi, cuci insieme, specifica, è la creatura, eh? Attenzione, Frankenstein, non fate attenzione, Frankenstein non è il nome della creatura, Frankenstein è il nome. Frankenstein è il nome del costruttore della creatura che Gene Wilder nel film di Mel Brooks chiede a gran voce che sia pronunciato Frankenstein, perché non vuole neanche lontanamente far pensare alle sue lontane origini tedesche, ricordate? Frankenstein, perché sennò poi c'è Frau Helga, come cazzo si chiama lì, la Frau Bülow, che ogni volta che viene nominato il suo nome, i cavalli nitriscono. E la gobba di Marty Feldman, se vi ricordate, si sposta a destra, ma perché? Cioè, sapete perché? Cazzo, allora, perché nel film Frankenstein, in uno dei film Frankenstein degli anni 20-30, in un classico, non in quello di Whale in cui questo personaggio non c'è, ma in un altro, nella sposa di Frankenstein, c'è effettivamente il servo gobbo di Frankenstein, che nel libro della Sally non c'è, ma l'hanno messo in uno di questi film, il quale per un errore, per una svista, più che del regista, della segretaria di produzione che doveva dire, in una scena c'ha la gobba a sinistra, nella scena dopo, montata giorni dopo, c'ha la gobba a destra. E questa cosa tutti i cinefili ovviamente la sapevano. Quando Mel Brooks fa fare Ten Junior dice, cazzo, devo mettere questa. E mi sembra un vado errato, glielo suggerì Gene Wilder, cioè l'attore che fa Frankenstein lì, che è un altro cinefilo come Mel Brooks, e cazzo dice, facciamo quella roba lì di cosa. E anche tutta la storia di questi giochi di parole, che devo dire il traduttore italiano ha fatto molto bene, perché per esempio ululì, ululà, che è una delle cose che fanno più ridere. Allora, nell'inglese è werewolf, è werewolf, cioè werewolf è il lupo mannaro, scritto were, ecco. Però werewolf si pronuncia esattamente dove è il lupo, where is the wolf. Allora, werewolf dice, ma dov'è il lupo? Lei dice lupo mannaro, e lui dice, ma dov'è il lupo? Perché non capisce, werewolf capisce where is the wolf, no? Dice, no, dov'è il lupo? Dice, no, il lupo mannaro, non si poteva fare in italiano, allora ha fatto ululì, ululà, e lo spettatore italiano si sganascia dal ridere. No, ve lo dico io perché sono stato protagonista di un episodio veramente imbarazzante, e mi ha cacciato dal cinema due volte perché se ridevo troppo. La prima ero molto piccolo, sì, avevo 15 anni, 16 anni, però vergogna, una figura del cazzo, perché ho con mamma, pochissime volte mai andato al cinema con mia madre, ma potevamo cinema, ma danno le vacanze di Mestre di Lo, per me uno dei film più esilaranti che non ho mai visto, soprattutto alla scena del gelato che cade e con il cavallo imbizzarrito, lui che vorrebbe intervenire ma non riesce, e sta ammasso il gelato che cade, giù, lui fa, morivo, e ridere. Ridevo in maniera, devo dire, veramente indecorosa. Adesso ho un po' imparato a ridere meno, ma avevo una risata così, quindi arriva la mafia. La seconda volta con degli amici a Torino, vado a vedere Sarantino Junior, non per la terza volta, perché all'epoca si poteva andare al cinema, non è costava tanto, quindi si poteva vedere i film, quando avevo 18 anni, sì, 20 anni, no, 18. 8 e mezzo di Fellini lo vidi 7 volte in un anno, e beh, questo però fu la ragione per cui non fui più felliniano dopo quell'anno lì, perché avevo fatto un'indigestione come oggi. Ma insomma, fare tempo mi passano dal cinema e mi chiedono gentilmente di andare via perché rido troppo. Ma fare tempo è uno dei film, a me Mel Brooks piace, ma come fare tempo Junior non ce n'è, cioè il brindisi col cieco che si cola la tasca, è troppo, cioè, ma è una roba, cioè, ci vuole una, non lo so, poi altri forse meno, ma anche devo dire Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco gli fa da quello sul western dove c'è lo sceriffo nero, è molto bello, se non l'avete visto cercatelo, in cui ci sono le città del west sono fatte veramente di cartapesta, cioè ci sono solo, ma è un western fatto, ci sono solo le facciate, le case dietro, ci sono i pali che li tengono, cioè una esplicitazione dei trucchi del cinema che diventano strutture narrative, è meraviglioso, cioè, e un uomo era credo sia morto, o no, è ancora vivo, non lo so, non è morto, antipaticissimo dicono tutti, uno stronzo unico, beh, come molti, anche Kubrick non è che fosse così simpatico, però una genialità terribile, comico, va bene, ho divagato. Allora, il succo, no, voglio arrivare prima della fine della lezione a dirvi la tesi, ma a caso, ma voi potete fermarmi, guarda, che è la mia, vai, croce, torna, sul seminario, cazzo, dico. Allora, gli esseri, gli uomini, o anche le anatre, artificiali del 700 e dell'800 sono pezzi unici, sono, come dire, esplicitano una logica industriale, ma sono ancora prodotti dell'artigianato. Vengono costruiti tanto nell'immaginazione quanto nella realtà, uno per uno, e sono cose diverse, sono prodotti diversi, non sono, sono esseri, sono pezzi unici, sono esseri. La grande idea della fantascienza e di Čapek per primo, allora Čapek si scrive così, Karel, che è come dire Carlo, Čapek, perché nelle lingue slave in genere la C si legge Z e la C si legge C solo quando c'è sto cazzillo sopra, Allora, questo si legge Čapek, se non c'avesse il cazzillo sopra si leggerebbe Čapek, vero? Sbaglio? No, questo dico perché noi non siamo abituati, tu sì ma noi no, quindi facciamo. Allora, e Karel Čapek è il primo, Karel Čapek nella commedia Ruhr, Rossum Universal Robot, Ruhr, R-U-R, Rossum, è l'inventore della storia, Rossum Universal Robot, i robot universali di Rossum. È la prima volta che gli esseri artificiali non sono più pezzi unici. Rossum trova una sostanza nuova capace di replicare, di imitare il corpo umano, eccetera, eccetera, e con questa costruisce legioni di esseri. Legioni di esseri. Avete visto tutti iRobot? iRobot? Ecco. Le schiere di robot di iRobot, di iRobot. Eccole. Quelle sono. Nel Novecento, mentre l'automa o l'androide è un pezzo unico, è costruito da un artigiano, quindi singolarmente diverso, il robot è, che cos'è il robot? Quindi è una metafora dell'operaio, è la classe operaia, è la società massificata, è l'essere umano che ha un comportamento uguale, tale e quale a quello di tutti gli altri suoi compagni, perché tu lo metti nelle condizioni che non solo in fabbrica ma anche fuori dalla fabbrica deve fare esattamente sempre le stesse cose. Poi in realtà fuori dalla fabbrica l'operaio cerca di non fare sempre tutte le stesse cose che fanno gli altri, ognuno cerca, però è troppo poco il tempo che ha e finisce per una serie di motivi per fare anche lui sempre le stesse cose, ma la leggenda dell'operaio che il sabato sera, che il sabato pomeriggio incassa la paga e il sabato sera va a sbronzarsi, se la spende tutta nelle bettole mentre la moglie è in casa, poverina, non ha i soldi, eccetera, eccetera, eccetera, in realtà è una roba semplice, che obiettivamente la società della fabbrica fa una pressione ugualitaria e omologante, unificatrice sul comportamento del singolo, che uno giustamente dice no, la working class inglese è tipica da questo punto di vista, più vai al nord peggio è, al sud nei paesi mediterranei è un pochino diciamo diverso. Bene, il robot è esattamente una metafora e un'immagine della forza lavoro del Novecento, della forza lavoro massificata, tutti uguali, esseri uguali, non per colpa nostra, ma perché Rossum ci ha fabbricato così o il capitalista mi fa vivere in un modo per cui a lui serve che io sia uno come tutti gli altri. E quindi la, diciamo, è vero dal tuo punto di vista che alcuni dei temi fondamentali dell'immaginario dell'uomo artificiale sono già fissati nel Frankenstein della Shelley, di Mary Shelley. Ma questo non è, questo è un dato nuovo che nel Frankenstein di Mary Shelley non ci può essere. La creatura del romanzo di Mary Shelley non è forza lavoro, è un essere che vorrebbe diventare, eccetera, eccetera, eccetera. La Shelley ha già risolto il problema che vi dicevo prima. Gli esseri artificiali sono in grado di avere emozioni come noi. Se voi leggete Frankenstein, capite che Frankenstein è un essere umano 100 volte più sensibile della media degli esseri umani dell'epoca. Lui vorrebbe solo, è solo brutto e fa orrore alla gente. Nel film ovviamente quindi canta appunto in Candarizza con Gene Wilder, va bene, diverte il pubblico per quello, so. Nel romanzo non mi fate ricordare quel film che mi viene da ridere. Trattenetemi. E lui va e si mette nella cosina e spia dalla stalla, dalla legnaia, alla famigliola, che due maroni, mamma, papà, bambino, cioè, però lui sa, anch'io vorrei avere, cioè lui vorrebbe essere un uomo, cazzo, e ha tutte le qualità per essere un uomo. Perché si rivolta? Perché la società e Frankenstein in primo sono una manica di stronzi mai visti, cazzo, che soltanto perché uno dà quattro cuciture sulla cosa e dà due robe nel film di Whale, perché nel romanzo non ce l'ha, due cosine che gli escono dalle tempie, già questo è cioè, non ti voglio, perché sai che no, è il simbolo di ciò che è diverso dalla nostra esperienza usuale normale. Ma non c'è in Mary Shelley il tema della massificazione e quindi della perdita dell'umanità ad opera della massificazione. Nel robot novecentesco il robot non sarà uomo, esattamente come gli uomini non sono uomini, come gli esseri umani della società di massa rischiano di perdere la loro umanità, che è esattamente quello che dice Dick in Do Androids Dream e in un sacco di altri cose sui robot. Anche per Dick gli androidi, cioè i nuovi robot, sono i robot umanoidi, sono un simbolo della disumanizzazione, della mancanza di empatia, dice Dick. Ma molto spesso anche gli esseri umani sono, e spesso Dick poi si interroga, dice ma come? Dice allora cazzo, non è che sono gli unici stronzi, sono, è vero che nel romanzo di Philip Dick in Do Androids Dream i Nexus 6 sono parecchio più stronzi di quanto non siano nel film, il film ha molto edulcorato, però nell'ambito dell'opera di Dick, non in quel romanzo ma in altri romanzi, molto spesso il dubbio c'è che in realtà gli stessi meccanismi o meccanismi molto simili che rendono non umani, quindi privi di emotività, affettività, sentimenti, gli esseri artificiali sono gli stessi meccanismi che possono rendere disumani anche gli esseri umani, quindi che non sia una cosa limitata. Ma tutto questo può accadere soltanto perché per primo Čapek, 1920 o 21, non mi ricordo mai qual è l'anno giusto, in uno di questi due anni, quindi scrivendo questa cosa, come si chiama? Čapek introduce quindi questo passaggio dall'essere artificiale come una creatura unica costruito in maniera diversa di volta in volta a un prodotto della serialità, della serializzazione, quindi della massificazione della società del Novecento. È chiaro che oggi le cose cambierebbero ancora perché evidentemente la massificazione da un sacco di punti di vista è venuta meno, è finita e ci si è aperta una fase nuova, ma insomma questa è un po' storicamente la cosa. Allora oggi abbiamo semplicemente inquadrato un attimo, così insomma vi devo dire ancora un sacco di cose ma va bene, abbiamo inquadrato la questione dei paradigmi, abbiamo inquadrato la questione della, abbiamo fatto un piccolo brevissima un po' di storia, ve li ho introdotti qua e là gli elementi storici, non sono molto ordinati ma comunque va bene. Allora, tutto questo, guardate, nel libro, nel Cyborg, non è spiegato così bene, perché il libro non è dedicato a tutta la figura storica, ma a una figura specifica. Però alcuni accenni qua e là li insomma, trovate. Siamo partiti dal fondo, perché siamo partiti in realtà dall'oggi e, dalla, e dal trionfo in alcune zone del paradigma informazionale sulla vita, che è quello che rende possibile riproporre l'idea dell'artificializzazione per il tramite dell'informazione. Abbiamo, vi ho indicato, spero, i limiti, almeno alcuni limiti di questo paradigma, poi altre cose possono essere più o meno invece utilizzabili o condivisibili. Le prossime volte cominceremo a approfondire. Sì, adesso ridono, chiaro. Prima chiaro, poi dice, ma chi è? È un numero sconosciuto. Va bene, insomma, approfondiremo mano a mano i singoli temi. E passeremo ovviamente, beh, intanto vi devo ancora spiegare perché in tutta questa galassia poi ho scelto la figura del cyborg, per, che è una figura un po' particolare e allude a dei processi particolari, va bene, comunque insomma, va bene. Non avete capito, cioè vi ho confuso la sufficienza di idee e le rimetteremo a posto l'altra volta. Allora, mercoledì prossimo la seconda straordinaria, giovedì la seconda normale, state bene. Qualcuno deve ancora firmare? Sì. Non sapevi, non sei grande. Arrivava l'email. No, l'ho detto a lezione. Ieri ho finito il linguaggio e oggi ho cominciato l'uomo attività. Cioè, è dimenticato, adesso. Non fategli. Non fategliene una cosa. No, io ho pensato che avranno da fare. Putting on the reach. Non c'era la Germini, io lo sapevo che non c'era la Germini. Questa vi piglia per il culo tutte le volte. Beh, Mariani che ce la pagherà. Ah, perché Mariani che ve l'ha detto. Mariani fare la spettacata. Capirai quando è che capita che il direttore si parla per gli allora, non faccio avanti in breve a cercare. No, senti, allora, dei ragazzi del Boccioni mi hanno invitato domani, che vanno delle giornate di avvicinamento al giotto, a fare un'assemblea. Mi hanno chiesto se riesci a venire. Io sono in Sardegna ormai. E la Madonna. Ragazzi, che devo fare? Beate, no, beato me. Beato me, col... Col, sì, però c'è un casino perché ovviamente i come si chiamano, insomma, gli stronzi lì, la Sara sta cominciando a fare casino in tribunale, non è ancora una vera denuncia, però questi sono spaventati, quindi probabilmente su tre proiezioni ne salta una, io non so. Sì, perché era un collettivo studentesco che hanno avuto paura. L'ente per il diritto allo studio gli ha fatto casino e quindi io vado domani. Ma domani no, sera non c'è la cosa. Sì, sì. Quella non è stata fatta poi? No, ci dovrà essere domani, ce ne sono tre. Solo che quella di domani sera, che era all'Università di Cagliari, probabilmente salta. Io spero che ce la facciamo a non farla saltare. Siamo conosciuti tra l'altro con il Università di Cagliari. Ma va, davvero? A Roma, quando hanno fatto E ma chi sono? La bandiera. Sì, perché loro sono indipendentisti, I treni pure il certo. Loro la nave e poi... La nave, è poveretti. Dove sei? È alla R. A R, dove la R? Ah, poi eccola qua. No, ascolta, io devo dire una cosa. Se vorrei mettere a fare il report. Dammi che ti tengo io. L'autoformazione. Per darle qui di più. Ma lo devo fare? Che ne so io, ma a me... Ma no, lo devono fare tutti gli studenti, no? Tu scusa, già facciamo sempre... Se io lunedì non ci sono, perché sono ancora in Sardegna, quindi a io cose non ci posso venire. L'altra cosa che ti volevo chiedere è, allora, noi adesso giugno facciamo un mese di festival, cioè la culturale. Dividiamo le quattro settimane davanti. La prima è dedicata e continuiamo a fare un test. Delle? Non spesso. Siccome sono solo due giorni, non facciamo tutta la settimana, io la domenica faccio insieme oppure buffet, avremo una cena di scienza. E Loan sta guardando in giro delle figure, presentazioni di narrative. Vediamo i giorni. Io mi ricordavo che tu mi hai parlato di delle letture che hai fatto al Tasso. No, è una roba pazza, ma cioè, non... Se, però se vuoi si può fare, ma... in tema ho presentato eccola no te la porto sì. va bene. Le promesse, una a te e una credo a Ramona. Tu vuoi una ovviamente maschio, ma L, no, M, come cazzo vuoi, L, no, tu quella che hai la... cambiamo sulla taglia. Ah, te l'ho chiesto per questo, che allora non lo so, bene, tu non è che mi sembri un colosso, però insomma sarai un po' più largo, sì, sei lungo, lo so, questo lo vedo, sarai un po' più largo di me. Allora guardiamo i giorni, perché allora, il 9 è un martedì, quindi la domenica sarà ma cos'è che era esattamente questa cosa che no allora era un sono dei testi che io ho di un giapponese pazzo, ma con una musica bellissima che hanno fatto Equizzi e un altro, una techno terribile, e io ho fatto la lettura di quei testi lì in modo se c'è qualcuno che sa fare della musica buona si potrebbe rifare, però mi devi trovare qualcuno che fa della techno cattiva. Ma per caso avete una lettura? No, techno, ma buona. Adesso dovrebbe mandarmele. Allora, no, ma basta che se c'è uno che fa. Ma potrebbe anche essere. No, non la techno da discoteca, non la techno da discoteca. Elettronica però pazza, cioè non di consumo, di sperimentazione con un pezzo. Ma... Allora, è la domenica prima o quella dopo? Il 14. Allora, io ci dovrei essere, finora non so nulla. Vogliamo fare... Allora, io mi segno cantiere qua. Ma comunque, se vuoi... Le antiche che dove è? Magari potrebbe presentare il cyber, perché sennò che palle, madonna. No, volendo, ma si può parlare di queste cose, si possono fare delle letture un po' più così, anche un po' più serie di quella, insomma. Facciamo una roba più di cose. No, poi dopo se vogliamo, adesso io all'Utopia ho presentato un romanzo di uno autore giovane, nuovo, che potrebbe essere interessante, che è sì, più o meno è fantascienza. Non è male, perché io l'ho fatto volentieri. Pensiamoci un po' su, insomma, vediamo cosa su che cosa fare. Comunque in quel periodo lì ci dovrei essere. Che cosa? Milano proponeva una cosa. Ma Lorenzo quello del Nord? Sì. Okay, faresti venire lui con. Con un po' di ci parlava di un progetto che stanno facendo. In realtà lo fumetto, cioè praticamente loro sono andati a festivale e fanno dei video sulla strada. Poi prendono dei fotogrammi. Fanno una, cioè fanno del fotoritocco, immagino, e poi li trasformano in un fumetto e fanno delle enormi tavole e c'è tutto un discorso rispetto al fumetto. Signora, ho finito io in Aula Magna. Grazie, arrivederci. Adesso c'è sempre una lavagna. Cazzo, visto che è libera, c'ho un sacco di gente, scusa, per tenerli affollati. Non dirmi, sono di coglioni le prime volte. Io dicevo, no, non può andare, non può andare perché c'è Belluccio. Io come uno scemo, non ho mai. Sì, non ho mai. Non mi sono mai chiesto, ma Belluccio si sta fino alle 2. Ah, dico, allora cazzo, alle 2 arrivo io, ma che cazzo volete? Hai capito? Era qua. Però ci ho messo 2 mesi per scoprirlo, cazzo, che c'era. Adesso che lo so, vado nella Romagna, perché è liberissima. A me mi piace, ma lunedì sono ancora in Sardegna, quindi non posso sentire io cose, verrò a sentire da lì, Scusate, che cosa mi sono fatto male? Ma che cosa ti serve? Perché? Quando sei rimasti male perché? Perché dicevo, ma cazzo, cos'è sta roba? E che io poi avevo fatto tiritare che avevo detto, poi Scientology l'ha fregata. Ah, sì. E avevate scoppiato a ridere, poi eravamo andati in paranoia, credevano di aver fatto la figura di merda, non riuscivamo a spiegarci. Io li ho presi e gli ho detto, no, ma spiegami, ma queste sono false finte, le lettere non vi sono arrivate. No, è tutto vero, è tutto vero. Non capivamo più che cazzo. Invece è andata così. Ci vediamo lunedì per la formazione. Sì. A che ore? Alle 10. E poi con voi ci vediamo mercoledì, ciao, perché io lunedì non posso. Ciao. Filosofie orientali. Termine vago, generico. Io mi sono interessato solamente di questo. E non lo so mettere scritto nelle parole, però ci vedo molte cose in relazione, sia al linguaggio sì, che al sì. No, certo, si può fare in un momento. Allora. Allora, su questi temi alcune delle cose, cioè Bifo è Franco Berardi, è uno che ha un interesse per le filosofie orientali, diciamo più forse per il buddismo indiano, per il buddismo indiano, per alcune scuole del buddismo indiano, però insomma sono cose. È una persona seria, quindi non ha scritto premiazze. Credo che alcune robe nel libro, però non è proprio un libro dedicato a quello, però nel libro Mutazione Cyberpunk, che è vecchiotto perché ha ormai degli anni 90, quindi ha una decina d'anni almeno, però trovi scritte delle cose di questo genere qua. Il problema di queste cose è che, allora si chiama Mutazione, Franco Berardi, Mutazione e Cyberpunk, edito da Costa e Nolan. Non so se sarà ancora in giro per questo libro, è comunque interessante. E Bifo ha scritto altre cose su questo tema, perché è un tema che a lui lo appassiona. La cautela che bisogna avere, secondo me, con queste robe qua, molto semplicemente è quella di non... Io per esempio ho letto un paio di libri di questo Suzuki, che è uno di quelli che hanno scritto, ecco. E insomma, a volte c'è una... specialmente come sono state recepite in Occidente, c'è una ipersemplificazione, c'è una, insomma, poi ci sono quelli che sono gasati, velocità, ma invece da un punto di vista io non sono contrario, trovo che abbiano, però insomma bisogna solo vedere come si affrontano, cioè come si inquadrano, insomma, diciamo così, perché poi sono due robe che possono essere prese come una fortissima deriva spiritualista, insomma. Certo. Allora, Bifo so che non lo fate, che è esatto appunto, perché è uno. Lui, poi probabilmente ci sono anche altri, però, che per adesso non mi vengono in mente, ma la prima cosa che mi viene in mente così all'impronta è questa. Poi forse lì trovi qualche altra indicazione, non so, adesso. Per adesso qualcosa di più e qualcosa di Watts. Vabbè, che Watts è ormai però... sono robe vecchie, sono robe antichissime, degli anni 60. Watts è stato il primo occidentale che ha scritto di Zen, e Suzuki invece è giapponese, occidentale, però ha fatto il contrario, sì. È venuto in Occidente a raccontare le cose. In realtà poi alcune robe che ho letto dopo, non mi ricordo neanche bene, mi hanno fatto capire però che è un panorama assolutamente complicato, in realtà anche le letture dello Zen sono di vario tipo, comunque vabbè, vedo che ha appena cominciato, quindi quelli sono testi base, utile conoscerli, ovviamente capirli, perché io vado in qua, va bene. E comunque prova a cominciare, prova a vedere se trovi questo libro di Bifo, che può essere interessante, c'ha qualche passaggio che hai fatto. Se no, cerca anche in rete delle robe, se c'è anche su internet con Google, Berardi e buddismo, forse qualche altra cosa trovo, perché lui è uno che ha scritto su questo tema qua, più di me. Ciao. Ciao. Vabbè, andiamo allora, questo non si muove. Agnese o Chiara? Ho finito di parlare. Ah, non chiuso per Boccioni dalla scuola. Lei domani può venire. No, io domani sono in Sardegna. Ah. Gliel'ho appena detto. Ah. Parto domattina alle 7 del mattino con un aereo, sono in Sardegna 4 giorni a fare dei lavori. sarebbe stato bello. Quindi, grazie, mi dispiace, Fabio. Sarà un'altra volta. Ciao. Felice, vediamo. Spero, ciao. Thank you. Grazie.